Mix 24 di Giovanni Minoli. Il faccia a faccia. Carlo Calenda, 43 anni, romano, sposato con 4 figli, il primo avuto da giovanissimo, laurea in giurisprudenza, lavora in Ferrari, poi coordina l'Associazione Italia Futura di Montezemolo, vice ministro dello sviluppo economico, prima con Letta, poi con Renzi, che lo rivuole a Bruxelles come rappresentante permanente dell'Italia presso l'Unione Europea, figlio dell'economista Fabio Calenda, nipote del regista Luigi Comencini. Nel 2013 si candida con Scelta Civica ma non è eletto. Dopo lo scandalo che ha portato alle dimissione il ministro Sviluppo Guidi, l'8 maggio viene nominato ministro. Uomo sincero e diretto, di lui Renzi ha detto: è addirittura più litigioso di me. Ministro Calenda, buongiorno. Si può essere più litigiosi di Renzi? Poi immagino di sì, io però cerco di non esserlo. Secondo me c'è una differenza tra essere litigiosi e essere capaci di prendere posizioni dure. Va bene. Questa è la cosa importante. Senta, proviamo a vedere se è diretto e sincero, ok? Sì. Va bene. Finalmente ministro, un sogno che si realizza? Sì, per me è importante. Nel suo profilo Twitter lei infatti ha scritto: dalle aziende alla politica, senza pentimenti. Che cosa ha di più la politica che le aziende non hanno? L'idea di fare una cosa per il proprio paese e cercare di farla anche potendo incidere su grandi cose, non solo su un'azienda, che pure è una cosa importante ma è più piccola. Alla Confindustria, giorni fa, nel suo discorso, lei ha iniziato con una frase che mi ha colpito molto, molto sincera. Ha detto: finalmente, oggi, leggo io un discorso che ho scritto io. Cioè, sostanzialmente, questo è il punto, un'esigenza di giocare in prima persona. No, nel caso specifico ho scritto discorsi per qualche presidente di Confindustria e ho aiutato a scriverne per ministri. Per una volta era una soddisfazione poterlo anche leggere. Insomma, basta dietro le quinte di qualcuno. Ma sì, insomma, si è sempre un po' dietro le quinte di qualcuno, però questa volta più in prima persona. Ecco. Adesso è ministro. Fino a pochi giorni fa rappresentava l'Italia a Bruxelles. Abbiamo detto, Renzi quando l'ha nominato ha detto: mando a Bruxelles uno più rissoso di me. È stata una grande rissa a Bruxelles. Al contrario, è stata l'esigenza di mettere in piedi un rapporto costruttivo. E certe volte anche duro. Costruttivo non vuol dire non essere duri. Ma una cosa è essere duri e una cosa è la rissa. Ma cosa pensa di aver fatto meglio in questi mesi che è stato a Bruxelles? Ma ricostruire un clima di fiducia con la Commissione, con Juncker, che ci ha aiutato nella gestione di una serie di dossier molto complicati. Cioè il suo successo qual è, lo consiglio? Uno è il Migration Compact, che devo, e lo voglio dire, ai giovani della rappresentanza, quei diplomatici che avrebbero dovuto boicottarmi e che al contrario mi hanno aiutato tantissimo. Ma c'è molto da litigare a Bruxelles? Certe volte sì. Ma siamo attrezzati a farlo? Sì e no. In alcuni casi abbiamo la forza di farlo, in altri casi ci manca la preparazione. La preparazione. Cioè è un contesto in cui l'Italia conta poco anche perché è poco presente, forse poco preparata. Non è un contesto in cui l'Italia conta poco, è un contesto in cui l'Italia ogni tanto conta poco quando non è presente. Io ho citato il caso di un anno e mezzo di assenza del mio ministero da Bruxelles, che è una follia, è una cosa che non può succedere. Senza senso. Ma per nominare lei, Renzi ha bruciato tutti gli ambasciatori di carriera. Lei si è sentito a disagio? No, io mi sono sentito a disagio solo verso mio nonno, che era ambasciatore di carriera e che avrebbe detestato un politico. No, no, purtroppo non c'è più, ma avrebbe detestato un politico a fare il diplomatico. Però forse un po' di ragione ce l'aveva anche. Secondo me ce l'aveva molta. Lì. A Bruxelles. No, intendo Renzi. A Bruxelles è una cosa particolare. Perché dall'altra parte è meglio che ci siano i diplomatici. Guerra. Ma in concreto lei cosa ha potuto fare che un ambasciatore non avrebbe potuto? Prendermi dei rischi politici nella negoziazione, avere più spazio nella negoziazione, ed è fondamentale. Aveva un mandato più forte, ecco. Al ministero adesso lei ha detto: ci vuole un cambiamento radicale di processi, di organizzazione e di persone. Insomma, più che una rottamazione serve una strage. No, serve una costruzione. Una rifondazione, allora. Guardi, il problema fondamentale è che pochi si occupano della gestione. Noi pensiamo che le politiche sono molto importanti e la gestione sia irrilevante. È vero il contrario. Certo. Senza riforme, ma con una buona gestione puoi cambiare il paese. Il contrario non vale. Non è vero. È vero. Il ministero prima sembrava un porto di mare con le lobby che comandavano. Lo sapeva lei? No, guardi, io non credo che era questo. Io credo che era un gran macello, nel senso che... non era a Bruxelles neanche. No, quando le lobby entrano e devono entrare, parte della vita di un paese anche di mercato, ma vanno registrate in modo trasparente. Questo lo faremo avendo come standard quello della Commissione Europea. Infatti lei ha detto: io riceverò tutti, ma mai da solo. No, mai da solo e soprattutto con la registrazione di chi viene. Cioè è importante che si sappia. Si sappia. Certo. Quindi. Per organizzare questo cambiamento lei ha scelto un ragazzino come Enrico Bondi, perché? Perché Enrico Bondi è un ragazzino, ha lo stesso entusiasmo e l'entusiasmo è totalmente indipendente dall'età. Senta, ha detto, farò per settembre un piano industriale, glielo deve dire anche a Renzi quello, farò per settembre un piano industriale del Ministero con le cose che devono stare e quelle che non ci devono stare. Che cosa non ci deve assolutamente stare? Ma guardi, ce ne sono parecchie e le stiamo analizzando una a una. Per esempio io gestisco una cosa che si chiama la legge navale, cioè commissiono le navi da guerra, cosa che su cui ovviamente e giustamente non mi fanno dire nulla. Ma allora perché deve stare dentro il Ministero dello Sviluppo Economico? Giusto che sia nella difesa. Ce ne sono tante altre che sono più che altro desuete. C'è quello che il Ministero deve fare, dove deve essere fortissimo. È quello che deve fare assolutamente la politica energetica, la politica dei fattori. Cioè molto di più che dare incentivi, ragionare su come costruire per esempio una bolletta energetica che non penalizzi le aziende in maniera così straordinaria, l'opposto della scelta fatta dalla Germania. E sono politiche che sono orizzontali, dove il governo non sceglie quale settore aiutare e quale non aiutare, quel ma modo di fare politica, esattamente le condizioni di partenza. Sì. Appunto, il suo compito anche è quello, quindi sostanzialmente disegnare una politica industriale che o non esiste o è difficile da capire, sei d'accordo? Sì, è molto difficile, non esiste certamente, è molto difficile da capire. Proprio perché non esiste? No, è difficile da capire perché noi siamo portati come italiani a chiedere sempre che lo Stato faccia, e faccia per un caso, per quel settore, per quell'altro settore. Molto spesso invece lo Stato deve solo costruire le condizioni di contesto. E questa per cosa è meno lavorare, visibile, ma certo, molto più importante. Efficace. Sì. Lo diceva per l'energia, sì, per esempio. Ecco, ma intanto quando parliamo di politica industriale, quindi parliamo di più Stato, meno Stato o di uno Stato diverso? Io penso che parliamo di più Stato nel core business dello Stato, mentre invece meno Stato in tutto quello che lo Stato non deve fare, che è oggi abbastanza chiaro. E quindi va avanti con le privatizzazioni? Bisogna, assolutamente, bisogna farlo, è una cosa molto importante perché non solo perché si guadagnano dei soldi, ma perché lasciano spazio ai privati, alle iniziative private. Però hanno dato molto meno del previsto, sono un po' ferme. Perché, guardi, è molto difficile nella vita ottenere tutto quello che si vuole, però abbiamo spazi più aperti alle iniziative private, questo è importante. Senta, per esempio l'ILVA, per essere concreti, che è stato il primo intervento pubblico di Renzi, a che punto è? Guardi, noi abbiamo rifatto il processo di gara partendo da un presupposto, verrà aggiudicata alle varie cordate che si stanno formando, ma su una base di premessa, cioè che il piano ambientale presentato alle cordate sia per noi accettabile. Questo è un punto, diciamo, l'ILVA è complicatissimo, è come un Tetris, perché bisogna mettere insieme 100 cose diverse. Infatti, per esempio, Andrea Guerra, che se n'è occupato per primo, mollato, ha mollato troppo presto? No? Secondo me non si può mollare, è molto semplice, l'ILVA non si può mollare perché, oltre perché è importantissima come azienda e tra l'altro ha effetti su tutta la catena produttiva italiana, ma è molto importante per far capire che in Italia si può fare grande industria e io ne sono profondamente convinto, bisogna farla a condizioni diverse, non per esempio l'abbiamo dal punto di vista ambientale. Senta, intanto però dopo tanta confusione questa idea certa si sta definendo? Sì, ormai abbiamo un processo molto costruito, diciamo, a partire dal presupposto che le ho detto, dovrà andare in mani private, perché tra l'altro sull'acciaio sono vietati tutti gli aiuti di Stato, dovrà fare un piano industriale che parte dal piano ambientale e non viceversa, perché è inaccettabile, credo inaccettabile per un paese moderno che ci sia questa dicotomia tra lavoro e ambiente, non può esistere. Ma i tempi? I tempi, guardi, sono scanditi dal decreto, noi adesso ci sarà la presentazione delle cordate a fine giugno, poi dovranno presentare il loro piano ambientale, in 120 giorni verrà analizzato il loro piano ambientale e gli verrà data una risposta. Insomma, è solo per a quel dicembre. Punto lavoro. Sì, per dicembre la situazione, poi ci sarà il passaggio dell'antitrust. Senta, anche sulla RAI c'è stata confusione, oltre che sull'ILVA, prima si è parlato di privatizzazione, poi di canone sì, di canone no, poi il canone in bolletta, poi di una riforma solo della governance senza tante indicazioni strategiche, ma era meglio privatizzare? No, guardi, è meglio che la RAI, è fondamentale che la RAI torni a essere il grande motore culturale di questo paese. Sì, ma per farlo cosa deve fare? Deve fare un piano editoriale molto convincente e un piano industriale ancora più convincente, ma parto dal primo, il primo è persino più importante. Cioè il piano editoriale cioè, è più cosa importante? Vuole sì, cosa vuole fare? Perché cioè, è come un servizio pubblico? Come si legittima un servizio pubblico? Certo, e questa è una grande sfida oggi. Ma come bisogna dirlo? Però. No, bisogna, io lo sto dicendo, lo dico e l'ho detto anche l'amministratore delegato, e più la RAI è forte, più autorevole sui contenuti e anche più acquisisce indipendenza da tutte le tentativi di influenza della politica che sono detestabili, in particolare quando non hanno a che fare sulla qualità del prodotto. Adesso avete nominato appunto un uomo vostro che ha tutti i poteri, adesso deve farlo. Certo. È assolutamente così. È passato così. Già un anno. Ecco, bene, l'ha detto lei, io assentisco. Senta, altro intervento del governo a Napoli, Bagnoli. Ma il sindaco De Magistris però vi contesta, non vuole la cabina di regia. Come si fa senza il sindaco? Si va dritti. Si va dritti lo stesso? Si va dritti, perché quello che è impossibile accettare più in Italia è la deresponsabilizzazione. Cioè quelli che sono nella posizione di dirti così non mi va bene, però non ti dico come mi andrebbe bene. E quindi lei tira dritto anche senza il sindaco? Io penso che bisogna tirare dritti. Quella è una scommessa che in senso diverso è una scommessa simile all'ILV, della stessa importanza. Perché chi è stata in quella baia, io ci sono stato, sa che è uno dei posti più belli del mondo, certo, e va recuperato. Senta, il governo ha investito tanti soldi per quel progetto, appunto, che però questi conflitti rischiano di tener fermo. Lei dice adesso andiamo dritti comunque anche senza il sindaco. Però finora non è, insomma, il sindaco ha bloccato. Il sindaco ha bloccato, e non è questo l'unico caso, ce ne sono tanti in giro per Italia, e nello stesso modo bisogna vincere questa battaglia proprio per dimostrare che la costruttività, cioè avere un piano e non solo un veto, è una cosa che alla fine premia. Diverso. Io sono molto convinto di questo. Gli italiani lo vogliono, penso che è una cosa che sentono come una cosa importante. Senta, il Sud in generale, però, malgrado in molti viaggi di Renzi al Sud, sembra rimasto un po' fuori dal suo radar. Sarà così anche per lei o no? No, non lo sarà con il criterio che ha detto Boccia, cioè che secondo me è stato molto intelligente da uomo del Sud. Bisogna fare al Sud le cose che si fanno per tutta l'Italia con un'intensità maggiore, quindi non politiche speciali, ma intensità speciale nelle politiche che si fanno. E con quali strumenti pensa di intervenire? Guardi, ripeto, con gli stessi strumenti su cui noi interveniamo a livello nazionale, ma con più forza. E faccio un esempio: noi stiamo facendo un programma molto forte per far crescere quelle aziende che ancora non sono internazionalizzate, ma ce la possono fare. Abbiamo più fondi per farlo al Sud, e infatti ne stiamo usando di più e vanno usati di più. Ecco, ma lo strumento per attrarre investimenti al Sud in Italia dovrebbe essere Invitalia, non lo sta facendo? No, Invitalia sta facendo una cosa importante, che sono la possibilità, quando c'è una grande azienda che vuole venire, di fare dei contratti di programma, dei contratti che consentano la localizzazione, e ce l'ha tutto il mondo. Quello che non c'è è che farà l'ICE, che ha incominciato a fare, e tra l'altro in una serie di crisi aziendale sta svolgendo un ruolo importante, è prendere l'investitore da fuori e portarlo in Italia. Dopodiché Invitalia gli deve costruire il pacchetto che gli serve per investire. Ma lo sta facendo con buoni risultati? Lo sta facendo con risultati migliorabili, me lo faccio dire così. Migliorabili. Senta, il consigliere economico di Renzi, Gutgeld, dice che la politica industriale vuole dire mettere i privati in condizione di fare quello che ritengono meglio, è d'accordo? Sì, a larghe, sì, sono d'accordo, poi ci sono casi un po' particolari, ma sì. Grosso modo. Sì. Ecco, ministro Calenda, all'assemblea di Confindustria lei è sembrato molto in sintonia con il presidente Boccia, è vero? Sì. Ecco, ma qual è il punto forte di questa sintonia? La produttività. La produttività. Perché la produttività mette insieme il privato e il pubblico in uno sforzo che si può fare solo insieme. Infatti, fino ad ora il presidente Renzi ha ignorato praticamente i sindacati. Lei farà lo stesso? No, assolutamente. Io penso che i sindacati sono una parte importantissima, un attore molto importante. Quello che non credo che l'abbia ignorato, quello che ha detto è una cosa importante, cioè che se c'è un veto si va avanti lo stesso. Che l'onere e l'onore di governare spetta al governo. Ok. Intanto sul suo tavolo ci sono 150, mi sembra 150 qualcosa di meno. Casi aperti, convertenze che durano anche da anni in qualche caso. Quale crisi vorrebbe risolvere subito? Io guardi, più tutto l'ILVA ovviamente, per le ragioni che ho detto prima. Detto, poi sì, c'è l'Alcoa, che è molto difficile, perché è l'alluminio primario in una zona molto difficile che è quella del Sulcis. E stiamo mettendocela davvero tutta, una sfida difficilissima, e questi lavoratori, la cosa che mi ha molto colpito è che vogliono fare gli operai, cioè per loro fare gli operai è l'acquisizione della modernità, me lo faccia dire, no? Dall'agricoltura. E allora io questa cosa qua la trovo una cosa anche un po' emozionante, certo. Ci la metterò tutta, è una sfida difficilissima e magari non ci riesco neanche. Ma però è la cosa su cui si vuole impegnare di per primo. Mi piacerebbe riuscire a chiuderla. E infatti parlava di produttività, e in fondo Banca d'Italia, Confindustria e BCE concordano su questo punto, dicono aumentare la produttività, ma come si aumenta? Guardi, lavorando sui due fronti, su un fronte degli investimenti, e io penso che questo dovrà essere al centro della prossima manovra, molto forte, e sul fronte anche però per esempio della capacità del lavoro di agganciare la produttività e quindi la contrattazione aziendale. E su questo la Confindustria e i sindacati hanno chiesto uno spazio giusto per farlo loro, e io, mutuando una famosa copertina del Sole 24, ho detto sì, ma fate presto. Fate presto. Senta, però c'è il rovescio della medaglia. Ci sono circa 20.000 imprese il sistema Italia però è arretrato, è dipendente dalle banche, poco capitalizzato. E lo dice il presidente Boccia di Confindustria. Lei vuole aggiungere qualcosa a questo elenco di cahier de doléances? No, per niente. Anzi, trovo che sia molto brillante che lo faccia il presidente della Confindustria assumendosi la sua responsabilità. Io posso fare lo stesso sul governo. Sì, cioè, allora... le cose che non funzionano. È giusto che ognuno guardi dentro casa sua, battute a parte. Qualche voto lo vuole dare sul governo? Non ancora? No, beh, io ci sono da un appena mese. Appena arrivato. Non è possibile, sarebbe molto poco elegante. È una matricola, va bene. Tornerà qui, ne parleremo. Sì. Senta, però c'è rovescio della medaglia, dicevo, sull'industria. Ci sono circa 20.000 imprese che vincono sui mercati con continuità e 60.000 saltuariamente. Quindi il Made in Italy ha un margine. Ma guardi, il mondo, l'Italia è spaccata in due in tante cose. Noi l'altro anno abbiamo fatto il record assoluto di export. E abbiamo fatto il record assoluto di saldo commerciale. Noi pensiamo sempre che la globalizzazione ci abbia fatto male, ma se noi prendiamo il dato del 2001 abbiamo fatto più 150 miliardi di esportazione. C'è un'Italia che vince. Che l'importante vince, è portare più persone in quell'Italia. Ecco, il sistema industriale italiano però è costruito sulle piccole e medie imprese. C'è un futuro nel mondo globalizzato? Aspetti, prima di rispondere, senta cosa mi ha detto Guerra. Il tema vero è che quando noi parliamo di medie e piccole aziende, parliamo rispetto alla media europea di micro aziende. Le micro aziende purtroppo in questo mondo non hanno più significato. Ha ragione o torto? No, secondo me, e ne abbiamo già fatto questa discussione con Guerra, io non credo che abbia completamente ragione. Questo vale per esempio per i beni di consumo, non vale assolutamente per una grande eccellenza che sono le macchine utensili, dove il presidio delle nicchie. Cioè dove siamo fortissimi nel dettaglio. In nicchie, cioè in specifici macchinari. Ecco, lì possono rimanere aziende anche molto piccole. In generale però azienda piccola non può voler dire metodi vecchi. Questo accade. Lei parla spesso di progetto alti potenziali, cosa vuol dire? È esattamente quello che dicevo prima, prendere quelle 60.000 imprese e portarle nel cluster, nel gruppo di quelle che vincono sui mercati internazionali e facendogli un tutoraggio ad hoc, una per una, disegnando strumenti una per una che possano funzionare, perché oggi queste imprese, che magari hanno uno splendido prodotto, non sanno per esempio impostare un piano di apertura dei negozi nel mondo. È lì che dice Lice? No, io dico Lice, ma dico anche i partner privati, perché non si può fare tutto in house, come si dice, il governo non può fare tutto direttamente, deve comprare competenze all'esterno. Senta, lei dice anche che il dibattito ripresina non è un dibattito da bar, perché? Ma perché è irrilevante, lo sappiamo tutti che l'Italia non è dove dovrebbe essere. Allora che vogliamo dire? Che siamo quasi fuori dal tunnel, un pezzettino fuori dal tunnel, con un piede sì, un piede no, ma chi se ne importa? E qual è il dibattito giusto? Il dibattito interessante è qual è il potenziale e dove possiamo esserlo e come facciamo a coglierlo. Questo credo sia il ragionamento che se l'Italia fosse un'azienda io farei, non farei mai un ragionamento su mi accontento, non mi accontento, va bene, è irrilevante. Senta Calenda, nella guerra tra rigoristi alla tedesca e fautori di interventi pubblici per rilanciare l'economia, lei con chi sta? No, io sono guardi su una cosa, l'ho detto spesso, che si chiama competitività. Allora il rigore non vuol dire niente preso a sé stante, ma neanche la flessibilità vuol dire niente preso a sé stante. Il punto è dove indirizziamo le risorse. Io credo lo spazio per farlo, per esempio sugli investimenti, oggi c'è, è riconosciuto anche in Europa, ce ne vorrebbe di più e su questo dobbiamo combattere. Se ci infiliamo in un dibattito flessibilità, austerità, ma insomma lei pensa che lo Stato imprenditore sia sempre peggio di qualunque privato? No, non penso. Questo, però penso che lo Stato imprenditore deve fare per brevi periodi di tempo, dove deve gestire una transizione, sono casi molto eccezionali, altrimenti chiude lo spazio a un diritto degli imprenditori e dei cittadini, che è quello di fare iniziativa. Ma è vero che oramai lei è stato a Bruxelles, è vero che ormai a Bruxelles contano solo gli interessi tedeschi? Ma per nulla proprio, anzi la Germania ha, come diceva una importante copertina dell'Economist, ha abdicato al ruolo di leadership. Cioè lei non pensa che alla fine è l'Europa che si è germanizzata e non la Germania che si è europeizzata? L'Europa non si è germanizzata, purtroppo l'Europa è rimasta, come posso dire, un sogno costruito su una fase della globalizzazione che era quella dell'ONU, del WTO, dove non aveva abbastanza forza dentro. Ma lei non ha abbastanza forza di governance. Ma lei è contento che i suoi figli vivano in un'Europa così? Fiero. Senta, intanto all'orizzonte d'Europa c'è il Brexit, l'uscita dalla Gran Bretagna. Ci rimetterebbe di più l'Europa o la Gran Bretagna? Anzi, prima di rispondermi, senta cosa ha detto uno che se ne intende di mercati, Paolo Scaroni. Senta, ma se dovesse realizzarsi questo Brexit, sarebbe peggio per la Gran Bretagna o per l'Europa? Ma io credo che sarebbe peggio per la Gran Bretagna, perché soprattutto per Londra. Londra è oggi il centro finanziario dell'Europa e probabilmente una Gran Bretagna fuori dall'Unione Europea darebbe fiato a Francoforte o a Parigi per rimpiazzare Londra come centro della finanza. Secondo me ci sono due terreni che vale la pena di esplorare. Beh, il primo è che l'uscita di un grande paese come la Gran Bretagna potrebbe essere un esempio per altri paesi per uscire all'Europa. Il secondo tema da esplorare è che sicuramente la Gran Bretagna all'interno dell'Unione Europea taglia le ali a tutti i sogni di un'Europa politicamente integrata. E quindi chi veramente sognava un'Europa unita dovrebbe sognare il Brexit. Quindi sarebbe un'occasione anche per lei per ripensare l'Europa, così non va. Diciamo che per forza la dovremmo pensare in questo modo. Genererebbe molta genererebbe, speriamo non genererà, una grande instabilità sui mercati finanziari. Però anche Renzi ha detto che sarebbe soprattutto un disastro per gli inglesi, sì, meno per gli europei. È vero. Io lo condivido. Lo condivido. Senta, intanto le sanzioni alla Russia ci hanno penalizzato senza nessuna contropartita. Vanno tolte subito? No. Tolte insieme alle alleati occidentali, perché l'Italia è un paese che è all'interno di un'alleanza. Noi ci abbiamo rimesso più di tutti gli altri. Quanto ci abbiamo rimesso? 3 miliardi di euro su 414 di export. È vero, io non penso che siano utili, penso che nel tempo vadano, tutti sono d'accordo sul fatto che vadano tolte, ma bisogna farlo insieme, perché le ragioni della politica estera prevalgono sempre sulle ragioni di politica commerciale. Sono ragioni di politica molto americana quelle delle... L'Ucraina ha i confini con l'America, non con il Michigan. Insomma, va bene. Senta, Ministro Calenda, se i problemi delle nostre aziende sono quelli di cui abbiamo parlato, si dice che il trattato tra Europa e Stati Uniti, che è in discussione, spazzerà via tutto quello che abbiamo detto, è così o no? No, ma il trattato va esattamente nel senso di quello che abbiamo detto, cioè di rafforzare per le medie e piccole imprese la possibilità di competere. Però per molti invece è solo un accordo che privilegia le grandi multinazionali a danno delle imprese piccole. Ma è intuitivo che non sia così, perché oggi le multinazionali operano sui due fronti dell'Atlantico senza problemi. Il problema è, per un'azienda che fa freni a Bergamo, avere lo standard uguale negli Stati Uniti e in Europa è importante, è fondamentale, costa fino a 40% il costo del prodotto averlo diverso. Ed è chiaro che per loro è importante, per la Fiat Chrysler molto meno, c'ha stabilimenti da tutte e due le parti. Sì, però se tutto è così meraviglioso come dice lei, perché tanta segretezza nella trattativa? Non c'è stato mai nella storia commerciale un trattato più trasparente, dal mandato negoziale ai testi in itinere mentre si negozia. Sa come verrà approvato il TTIP? Il voto all'unanimità del Consiglio, il voto del Parlamento Europeo, il voto di 38, non 28, parlamenti nazionali. Le sembra un processo non democratico? Allora è solo demagogia quella contro? No, non è solo demagogia, è paura della globalizzazione in qualunque forma. Senta, ma che cosa mettiamola a rovescio, che cosa conviene solo agli Stati Uniti ed è certamente a nostro svantaggio? Le tariffe, se si prendono a livello medio delle tariffe, le tariffe agli Stati Uniti, un accordo per esempio solo tariffario potrebbe convenire più che a noi. Senta Calenda, ma è vero che pur di chiudere gli Stati Uniti sono disposti a un accordo al ribasso? Sì, no? Per la ragione che le ho detto adesso, se si fa un accordo solo sulle tariffe ci guadagnano di più, ma non siamo disponibili noi però. Ma non è un ombrello che loro vogliono aprire nei confronti della Cina? È certo, un ombrello che noi vogliamo aprire nei confronti della Cina. Senta, Ministro Calenda, lei ha detto che questo trattato è fondamentale, lo sta dicendo in tutti i modi, per chiudere la prima fase della globalizzazione e riequilibrare gli effetti pesanti che ci sono stati sulla classe media. Come? Beh, si pensava che dopo una prima fase in cui le economie come la Cina erano diventate di produzione e poi di consumo avrebbero aperto i loro confini ai nostri prodotti. Non è accaduto. Per farlo noi dobbiamo fare un accordo che mette insieme una gran parte del PIL mondiale, definendo insieme regole standard che diventano globali. Quindi definiamo insieme le regole e gli standard, che tra parentesi sono i più alti del mondo, perché quelli americani e quelli europei sono i più alti del mondo e spesso sono più alti quelli americani e quelli europei, ce lo dimentichiamo, per esempio nell'automotive, caso Volkswagen Deutsche. Senta, classe media vuol dire democrazia, la crisi della classe media vuol dire populismi. Siamo su questa strada? Sì, siamo su questa strada per la ragione che le ho detto, molto più che per tutte le altre, cioè perché la globalizzazione ha diminuito le differenze tra i paesi nel mondo, 1 miliardo di persone fuori dalla povertà, ma le ha aumentate dentro le società occidentali e a questo bisogna porre rimedio. Nelle classi medie per l'appunto. A proposito di populismi, se a Roma, a Torino vincessero i 5 Stelle, Renzi può continuare a far finta di niente? No, può continuare a governare, deve continuare a governare, anzi deve reagire governando di più. Sì, la Boschi ha detto però che se a Torino vincono i 5 Stelle non ci saranno i 250 milioni per la sanità che sono previsti. Ma no, si può metterla così? Non l'ho sentita, ma non credo volesse dire questo. Ovviamente non si può mettere in questo modo. Senta, Renzi dice: mi gioco tutto ottobre sul referendum. Ha fatto bene a personalizzare così tanto quell'appuntamento? Ha fatto bene a personalizzarlo sul DNA del suo governo, cioè a dire che quella è la riforma emblematica di questo governo. Anche per me lo è. E io non sono uno che fa tanta politica, ma in questo caso mi sento di dirlo: è la DNA come di questo governo. Come l'ha scelta la politica? Sì, l'ho scelta, ma come dicevo, questo tipo di politica l'ho fatta anche poco brillantemente, in scelta civica. Per cui, anzi, può darsi che non aiuti il referendum dicendo questo. Senta, cosa le piace di più di Renzi? Il fatto che se tu gli proponi un cambiamento raramente ti dice di no. E questa è una cosa, per uno che viene anche dal mondo delle imprese, molto bella. E di meno? Che certe volte non lo approfondisce a sufficienza prima di dirti sì o no. Cioè un po' superficiale? No, credo che lui gestisca molte cose impresa diretta. Troppe. E appunto, mi dicono che la sua squadra è troppo debole, servono più competenze vicino a lui, è vero o no? No, servono più processi, che è una cosa diversa. Competenze ci sono. Senta, ogni tanto in Italia è scoppiata la guerra per la banda larga tra Enel e Telecom. Chi vincerà? Non me ne importa niente. Ma fa bene all'Italia questa guerra? La concorrenza sì, la guerra no. Ma è guerra o concorrenza qua? Deve diventare concorrenza molto rapidamente. Cioè devono trovare un accordo? No. Al contrario, devono competere per fare un servizio fondamentale per i cittadini. È il punto della competizione, quello vero che fa bene all'Italia, qual è? È il fatto che ci siano due offerte, che tra l'altro chiunque le vinca dovrà aprire la piattaforma all'altro e che questo generi la possibilità per i cittadini di avere un servizio migliore a un prezzo inferiore. Senta, molto semplice. Senta, Ministro Calenda, quello che fa male ai risparmiatori italiani è certamente scoprire che la Consob non li ha difesi dalle banche. Deve dimettersi il Presidente Vegas. Non credo che stia al governo dire commentare sulle istituzioni indipendenti, però, detto questo, degli errori gravi sono stati fatti. Cioè, il report della Gabanelli ha ragione o no? Ha ragione. Anche la più grande banca italiana, Unicredito, un amministratore delegato che è stato dimissionato, ma è ancora lì e il titolo perde a rotta di collo. Un pasticcio all'italiana anche lì. Non commento aziende quotate e le loro dinamiche interne. Senta, pasticcio come lo è il Fondo Atlantico, è un ibrido incomprensibile con dentro anche la Cassa Depositi e Prestiti. È stata una straordinaria operazione che ha messo in sicurezza in un momento molto difficile il sistema bancario italiano. Ma fatto dalle banche, non solo dalle banche, certo, in un momento in cui l'Europa, dopo aver concesso ai paesi di aiutare illimitatamente i sistemi bancari, ha chiuso la Sara Cinesca e ci ha tagliato fuori. Potevamo farlo prima anche noi. Sì, con una finanza pubblica che però non era quella tedesca. Senta, insomma, ci possiamo fidare di questo sistema bancario italiano o no? Assolutamente sì. Però i mercati, lo vede anche oggi, non si fidano tanto. Ma ne uscirà da questa situazione, noi abbiamo sopportato, sta sopportando il peso della crisi, lo farà bene. Senta, Ministro Calenda, l'abbiamo detto all'inizio, lei ha 4 figli, sarà l'Italia il paese in cui vorrebbe che vivessero? No, sarà quello che loro sceglieranno di fare, perché il mondo è bello, perché uno può prendere un aereo e andare a lavorare e vivere dove vuole. E allora le faccio un'ultima domanda, cosa spera invece di essere sicuro di aver insegnato a loro? Il grande orgoglio di far parte dell'Europa. Mix 24. Una notizia prima di sentire le canzoni di Pietrangelo. Domani con il Sole 24 Ore prende il via l'economia per la famiglia, che è una raccolta per spiegare con parole semplici i segreti dell'economia tra temi globali e vita quotidiana. È una serie da conservare che consiglio ogni martedì e mercoledì per tutta l'estate con il Sole 24 Ore. Pietrangelo? Eccola. Was always me and you, shaping up and shipping out. Check me in and check me out. Do you like walking in the rain? When you think of love, do you think of pain? You can tell me what you see. I will choose what I believe. E allora, Pietrangelo? E allora la confusione, tutti in metro oggi parlavano secondo abitudine, ovviamente pensando all'amore, controllando la confusione, le ragioni per sentirsi forte, la confusione quindi di fare al meglio, parlando sempre secondo abitudine, ha chiamato Asterix, non trova più Obelix, non lo trova da due giorni, ha lasciato infatti i menhir in una grande confusione, però il messaggio è per Falbalà, ma sta pensando all'amore? Magari. Pensiero più bello che c'è, Mario, che dici? L'amore? No, tu non ci credi, lo so, lo so. Sì, vabbè. Sì, non so. Chiedigli dei gatti e vedi che ti dice. Ah, beh, i gatti li ama più di ogni altra, più di ogni persona proprio. Perché sono sinceri. Vabbè, vai con la tua bolla, va. Stamattina siamo partiti in quarta, vabbè, gli Smiths. Vai. Siamo in piena Londra, ma d'altronde tutto parla di Londra in questo certo, periodo. Certo, non c'è dubbio. Anche le borse stamattina. Beh, un disastro. Abbastanza. È andato male la borsa giapponese, quindi lo yen è salito, vabbè. C'è tutto un discorso sui beni rifugio, ma non lo facciamo qua. Però ci interessa sapere cosa succede questa settimana. È una settimana importante che, insomma, precede poi quella decisiva in qualche maniera per le sorti dell'Unione Europea con il referendum inglese, la famosa Brexit. Che cosa succede? Abbiamo in Italia il ballottaggio nei comuni, la cosa più importante, dal quale poi discenderanno tutta una serie di considerazioni politiche che faremo quando ci sarà la notizia. Altrove è un mazzo di carte con poche sorprese. C'è una cosa importante a San Pietroburgo, che è il Forum Internazionale dell'Economia, dove tra l'altro ci sarà ovviamente Putin, però Juncker e anche Renzi, da quel che vedevo. E sul fronte delle imprese, la cosa più interessante riguarda Apple e la tecnologia. Comincia la conferenza degli sviluppatori e sono attese delle cose per Siri. E poi c'è una raffica di dati macroeconomici che sono sempre da tenere d'occhio per capire appunto perché la borsa va male, lo yen sale, il Nikkei va giù e le borse europee. Perché? È produzione industriale, devi guardare i dati. Ma stiamo parlando appunto. Bisogna studiare. Comincia la riunione della Federal Reserve domani e mercoledì non ci dovrebbero essere novità, ci sarà l'annuncio da Yellen, vediamo un po' che cosa succede. E occhio ai dati sulla produzione industriale americana, ai dati sull'inflazione, ai dati sulla disoccupazione. Attenti a tutto, Io lo dico perché la gente poi dice vabbè, ma cosa è successo? Ecco, è successo perché ci sono degli appuntamenti di cui bisogna tenere conto. La cosa più interessante per noi con il ballottaggio è un discorso di Mario Draghi venerdì a Monaco in Germania e vediamo che cosa sosterrà il nostro governatore. Salamino! Niente soldi a Torino se poi vince l'Appennino. Maria Elena Boschi, ministro delle riforme, nonché vero guardiano del governo, alza il tiro sul rischio di una vittoria del Movimento 5 Stelle a Torino e dice: occuperei di più a Torino del fatto che se vince l'Appennino, Torino perde 250 milioni stanziati dal governo per creare il Parco della Salute. Di questo mi preoccuperei. Eccola, così parlò, poi su Twitter negò, per poi tornare indietro, visto che perfino Piero Fassino ne ha avuto imbarazzo. E vabbè, anche poco Calenda. Prima Calenda appunto ha detto sui soldi di Torino, Boschi sbaglia. Però sono parole sue di se medesima e sono comunque un segnale. E domanda che ci domandiamo: quale altro ricatto ci sarà su Roma se il PD sarà costretto? Rivederci Roma. Goodbye. Arrivederci Roma e se vince la Raggi la capitale torna a Firenze. Arrivederci Roma, se vince la Raggi il governo si porta il Colosseo a Laterina e lì col pollice verso Maria Elena Boschi getta nella fossa dei leoni i correntisti di Banca Etruria. Arrivederci Roma, e se vince la Raggi, l'editore Caltagirone, offeso, se ne va via, si porta il Messaggero a Prato e lì ne fa tre edizioni, una in mandarino, una in cantonese e un'altra in vernacoliere per rallegrare tutto il giglio magico. Arrivederci Roma, e se vince Raggi, anche Totti se ne va. Entra nel cerchio magico e lo giunge ai cinque delle Olimpiadi organizzate badase a Rignano con tanto di nuova gara. Sarà salto con la quaglia cui prendono parte atleti reclutati presso le formazioni parlamentari centriste allenate, manco a dirlo, da Luca Lotti, che è Richelieu di Renzi, che se appunto vince Raggi impone pedaggi a chi sta fuori da tutti gli ingaggi in tutti i passaggi. E già a Roma succede questo. Un fiorino, chi siete? Quello che è passato adesso col carro, cioè è caduto il sacco qua. Cosa portate? Niente, quello di... ma siamo passati proprio adesso, stavamo qua, è caduto il sacco. Sì, ma quanti siete? Una, dai, dai, eravamo due quando siamo passati, ma uno vado a prendere il sacco. Un fiorino. Arrivederci Roma, e se vince la Raggi il governo firma un decreto dove anche il parlato cancelletto cambia verso, cioè si succede questo, che si impone il petaloso in ogni dove e sono tasse sull'uso di namo, damo, famo, per non dire di... E come famo? Un famo strano. Oh, per il famolo strano c'è l'arresto immediato, così Carlo Verdone impara a non fare l'endorsement chiaro. Ora sarebbe un farlo strano al massimo se vincesse la Raggi. Arrivederci Roma dunque, e il governo infine sciacqua in arno Sabrina Ferilli, scopertasi grillina, e ne dispone l'esilio al Mugello a far da testimone al coatta nella Casa del Popolo diventata va da sé filiale della Banca Etruria. E la musica è solo una. Arrivederci Roma, goodbye. 800240024, numero verde 349-238-6666, l'SMS. Mix 24. L'annuncio dell'abdicazione fu dato dai giornali la sera stessa del 9. A Vittorio Emanuele III succedeva il figlio col nome di Umberto II. Il nuovo re firma il suo proclama al popolo italiano. Davanti a Dio e alla nazione, giuro di osservare lealmente le leggi fondamentali dello Stato che la volontà popolare dovrà rinnovare e perfezionare. Così la settimana Incom dà agli italiani la notizia del giuramento di Umberto. È la sera del 9 maggio del 46. Adesso il principe di Savoia è diventato re di un paese distrutto da una guerra che sembrava non finire mai. Il regno di Umberto durerà meno di un mese, fino al referendum istituzionale che trasforma l'Italia in Repubblica. L'ultimo re, Umberto di Savoia, un uomo controverso che ha coperto con un lungo esilio e un dignitoso silenzio le gravi colpe di una dinastia. Le testimonianze, le rivelazioni, i misteri, qui a Mix 24, il giallo della storia, dopo il giornale radio. Mario, allora la bolla. Sì. Allora, vabbè, ma Justin Timberlake, no. Mamma mia, wow. Vabbè Giovanni, niente, una questione che si sta seguendo poco, anche se è emersa in prima pagina su Repubblica, mi pare, l'altro ieri, eccetera. Però a Sirte l'ISIS se n'è andata per ora. Per ora, sottolineo, infatti le truppe fedeli al governo provvisorio dell'ONU, anzi stabile ormai che sta a Tripoli, dicono di volere più armi, perché in realtà i cecchini di ISIS pare abbiano dei fucili che tirano per 2 chilometri, quindi niente male, e chiedono a Europa e Stati Uniti più armi. Ricordo che in Libia c'è l'embargo. Consiglio, posso andare a comprarli negli Stati Uniti, dove chiunque compra un mitra e poi fa una strage di 100 strage, persone, di 50 persone, quindi 50, mamma, ferite, mia. Sì, terribile. mamma mia. Facciamo il canzoniere, Pietrangelo. Io vorrei risentire soltanto il fragore della tua voce sul bruno macigno dell'aria la tua voce. 800 24 00 24, numero verde 349 238 6666, l'SMS. Ricordo che domani al Via con il Sole 24 Ore l'economia per la famiglia, una raccolta per spiegare con parole semplici i segreti dell'economia tra temi globali e vita quotidiana, una serie da conservare ogni martedì e mercoledì per tutta l'estate con il Sole 24 Ore. Mario, c'hai ancora? Sì, no, c'è una curiosità. In Alto Adige c'era un referendum e insomma la popolazione dell'Alto Adige ha detto no all'ampliamento dell'aeroporto di Bolzano. È abbastanza curiosa, perché a questo punto dovranno liquidare la società, non si farà l'ampliamento e l'aeroporto del capoluogo resterà senza perché collegamenti vogliono di restare linea. Isolati, e quelli decidono, fanno come vogliono, no vabbè, insomma cioè, la conseguenza sarà democracy. Quella va bene, certo, democrazia, non c'è dubbio. Per chiudere sentiamo che cosa ci dice Gloria Guerrera. Oggi una canzone per chi vive ballando tra le stelle ma sa che la guerra non finisce mai. Loredana Bertè. Non so